contro ordine, compagni. Spesso in questa trasmissione abbiamo accennato la necessità o utilità di adottare un punto di vista di sinistra e non ce l'avamo accorti che la sinistra non c'è più. Ormai che la sinistra non ci sia più, sono talmente in tanti a dirlo che presumibilmente avranno ragione. Al recente convegno, o meglio la recente convention dell'Hotel Parco dei Principi a Roma, come alla precedente assise di semiologia al Palaeur, la semiologia è la scienza dei segni, no? E questo della scomparsa della sinistra è stato il discorso assolutamente prevalente. Destra e sinistra come le abbiamo conosciute sono ferri vecchi, ha dichiarato tra gli applausi un tale onorevole Bianco. E l'ex giudice Ayala gli ha fatto eco chiedendo drammaticamente agli astanti come si fa a dividere l'Italia in destra e sinistra. E visto che l'unico a reagire dichiarando che tale convegno convention presentava delle spiccate stimmate di destra è stato Bettino Craxi, beh, si sarebbe quasi tentati di dargli ragione, anche perché ad assicurarci della non utilizzabilità di queste vecchie categorie non sono solo le regioni dei traversali, i tanti Salvatori, Rudelli, Flores d'Arcai, Sveltroni, Pannella, tutta la genia degli ex verdi, degli ex radicali, degli ex federalisti, degli ex indipendenti di sinistra, che una volta eliminato la sinistra si riducono a quello che sono sempre stato, cioè degli ex indipendenti e basta, e tutti un'altra quantità di incalliti nemici del popolo, di inesausti rivoltatori di gabbani, ma anche persone più serie. Sull'ultimo numero di Rivista Anarchica, per esempio, una pubblicazione cara al nostro cuore, ci si dedicava con entusiasmo al vecchio Andrea Papi, che è un teorico abbastanza stimabile e certamente non sospetto di traversalismo. Però è un po' strano, perché fuori di metafora destra e sinistra sono categorie eminentemente relative e come tali sono anche ineliminabili finché c'è qualcosa su cui stabilire delle relazioni. Prendete un foglio di carta qualsiasi, provate a tagliargli la parte destra e mi direte se quello che resta è soltanto la parte sinistra. Come metafora politica, lo sappiamo tutti, il termine è nato durante la Rivoluzione francese dall'usanza dei deputati agli Stati Generali di sedersi, secondo le tendenze e i programmi, alla destra o alla sinistra del presidente. E proprio perché un termine relativo, privo di particolare denotatività, molto comodo di uso, si è imposto superando altre ipotesi classificatorie. Per esempio alla Convenzione, non agli Stati Generali, i deputati, chiamiamoli così, progressisti, stavano sui banchi in fondo all'aula, quelli più alti, per cui li chiamavano la montagna, ma l'idea non ha avuto fortuna. Comunque è evidente che sia di destra o di sinistra, di montagna o di pianura, rispetto a qualcuno o a qualcosa d'altro, e che rispetto a qualcun altro o a qualcosa si può essere, senza essere assolutamente in contraddizione, di sinistra e di destra. Il problema è di stabilire il criterio di discriminazione, come sempre. Infatti, era quello che si faceva negli anni bui della nostra giovinezza, quando l'argomentare medio, la strategia argomentativa media era più o meno: ma come pretende di essere di sinistra tu, brutto pirla, che sostieni questa o quest'altra deplorevole tesi? Al cui si poteva ribattere: questa tesi, razza di deficiente, è molto più a sinistra della tua, infatti lo sosteneva anche Lenin. E pur non facendo grandi passi in avanti verso la liberazione dallo sfruttamento, almeno ci si capiva. Adesso però non ci si capisce più. Che la fedeltà al dettato di Lenin o di altri sia un criterio un po' discutibile, diamolo pure per scontato, anche se Lenin poi è meno scemo di quanto sia di moda a sostenere. Ma il fatto che i rifondatori, i traversalisti, i semiologi, tutta sta gente qua, si guarda bene dal precisare un criterio di distinzione qualsiasi, quando va proprio bene bene, quando va proprio bene hanno qualche idea programmatica, in genere su come garantirsi in anticipo il risultato elettorale, la uninominale secca, il premio di maggioranza, il doppio turno alla francese, quello alla tedesca o che altro. E tanto per intenderci sarebbe già qualcosa, ma siccome questa idea programmatica non la condividono con i colleghi di convegno di convention, se la tengono per sé e non la dicono a nessuno. E quando sono richiesti dei loro obiettivi, assicurano con faccia imperturbabile che i loro obiettivi sono quelli di risanare la vita pubblica, di superare le vecchie barriere, di creare un polo alternativo e via dicendo. Che provate un po' di immaginare uno che dica che la vita pubblica lui non vuole risanarla affatto, che a superare le vecchie barriere non ci pensa nemmeno e che il polo che vuole creare deve essere rigidamente non alternativo, e capirete che più che di aria fritta purissima non si tratta. Eppure insistono tanto su questa storia del non essere né di destra né di sinistra che qualcosa vorranno ben dire. Io che confesso a questa vecchia distinzione così utile per indicare, diciamo così, la differenza tra chi auspica la liberazione di tutti i suoi simili e chi preferisce difendere i privilegi proprio del suo gruppo, la trovo ancora abbastanza utile. Io ho il fiero sospetto che quello di cui vogliono liberarsi più che la distinzione sia il nome. Hanno lasciato la sinistra e non vogliono che vi si chiami di destra. Sentite, se ci tengono tanto possiamo anche accontentarli, e vuol dire che come ai tempi dei Montagnardi diremo che rappresentano la palude. Thank you.